709. Pere in composta prima maniera. Pere grammi 600, zucchero fine in polvere grammi 120, acqua 2 bicchieri, mezzo limone. Se sono perine, lasciatele intere col loro gambo. Se sono grosse, tagliatele a spicchi. Sì le une che le altre, via via che le sbucciate, gettatele nell'acqua suddetta in cui avrete spremuto il mezzo limone. Questo serve per conservare la bianchezza al frutto. Fatele bollire nella stessa acqua passata dal colino. Versate lo zucchero quando entra in bollore e per il resto regolatevi come per le albicocche. Servitele diace.